Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria in realtà sono temi che tra virgolette si trascinano dal fine settimana, in alcuni casi si trascineranno a lungo fino alla fine del 2018. Mi riferisco alla Brexit, di nuovo oggi indiscrezioni sull'atteggiamento britannico, e dall'altro indiscrezioni anche avanzate dal Financial Times, che sostiene che il conto per la Gran Bretagna potrebbe salire fino a 100 miliardi di euro, non più i 60 di cui abbiamo letto fino a questi giorni, come impegni già presi dalla Gran Bretagna nei confronti dell'Unione Europea. Altro tema che invece è un tema di casa nostra, e mi riferisco ad Alitalia, anche oggi varie dichiarazioni sia del ministro Delrio che del ministro Calenda, ne parleremo praticamente subito. Avremo anche un approfondimento sull'andamento delle nostre piccole e medie imprese. Perché? Perché oggi il CERVED, che da sempre fotografa l'andamento soprattutto di fallimenti e stato economico delle piccole e medie imprese, il CERVED ha in un rapporto segnala come vi sia una ripresa nelle piccole e medie imprese del centro-nord che hanno lasciato la crisi alle loro spalle. Per quello che riguarda, non tutte chiaramente, e stiamo parlando di una media, quindi prima che qualcuno mi scriva, attenzione, so che il dato così può sembrare molto forte, in realtà è la media su quello che è successo nel 2016. Per quello che riguarda invece l'andamento della borsa, segnalo che Unicredit guadagna il 2%, il Banco BPM l'1,70%, Fiat Chrysler l'1%, Generali più 0,90%, Terna più 0,60% come Saipem. Mezzo punto percentuale Unipol e Mediobanca. Il fronte opposto vede Case New Holland, quindi CNH Industrial, meno 2,15%, Mediaset meno 1,80%, Steam Electronics meno 1,60%, Tenaris meno 1,40%, Fineco meno 1,30%, Buzzi meno 1%, come Ferragamo l'1% lo perde anche Recordati, e Leonardo lo 0,90% è il calo di Biperbanca. Lo 0,80 è quello di Prismian e di Azimut, mentre l'euro riconquista quota 1,09. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina poi di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve, partendo come sempre dai 100 secondi di Radio 24, solo 24 ore, che sono dedicati, vedi un po', proprio alla vicenda della Brexit e delle ultime notizie che sono arrivate proprio sulla Brexit, anche perché la Gran Bretagna ha risposto: pagheremo solo quanto legalmente dovuto, l'Unione Europea è ruvida con noi ma non ha indicato cifre. Ha risposto poi il commissario europeo che sta negoziando la Brexit, mi riferisco Michel Barnier, che ha detto: non posso accettare la parola utilizzata di assegno in bianco, perché il ministro britannico che sta gestendo la Brexit, David Davis, aveva usato il termine non è che paghiamo un assegno in bianco, e gli ha risposto Barnier, ha detto: non posso accettare la parola assegno in bianco, non è un assegno in bianco, chiediamo solo di saldare il conto degli impegni presi dalla Gran Bretagna nel passato. Su questo, dicevo, si concentrano i 100 secondi di Radio 24, solo 24 ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Più passano i giorni e più abbiamo la conferma che il negoziato per l'uscita del Regno Unito dalla UE non sarà una passeggiata. Oggi è stato Michel Barnier, capo negoziatore dell'Unione Europea, a cercare di rasserenare gli animi. Il tema era spinoso, ovvero il contributo per gli impegni finanziari già assunti che il Regno Unito dovrà versare all'Europa. Barnier ha provato a spiegare che non si tratta né di una punizione né di una tassa di uscita, ma solo del pagamento di quanto dovuto soprattutto per gli impegni finanziari già assunti. Peraltro su questo problema circolano svariate quantificazioni. Per il Financial Times, per esempio, la fattura che Bruxelles potrebbe presentare a Londra ammonterebbe a oltre 100 miliardi di euro, molto di più rispetto alla forchetta 40-60 miliardi di cui si era parlato. 100 miliardi alla cui base ci sono gli impegni già presi da Londra con il bilancio comunitario 2014-2020, sia altri impegni tra i quali gli aiuti alla Turchia o anche le garanzie prestate dalla Banca Europea per gli investimenti. La reazione di Londra ovviamente non si è fatta attendere, con il ministro per la Brexit David Davis, che ovviamente non pensa di dover dare all'Europa né 40 né tantomeno 100 miliardi di euro, ma dice solo quanto legalmente dovuto. Siamo solo agli inizi, ma tanto basta per dare l'idea di quanto duro e difficile sarà questo negoziato. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Restiamo come sempre in apertura sull'economia internazionale. Una notizia che indirettamente riguarda il mondo a cui apparteniamo, quindi l'editoria: migliorano i conti del New York Times grazie al digitale. La raccolta pubblicitaria della carta stampata continua a calare, infatti anche per il New York Times. I ricavi sono saliti del 5%, l'utile netto si è attestato a 13 milioni di dollari contro 14 milioni di perdita nello stesso periodo dell'anno scorso. La raccolta pubblicitaria digitale è salita del 20% a 50 milioni di dollari e sono 308.000 gli abbonati in più nell'online. Venendo invece all'Europa, Deutsche Bank, oggi scopriamo tra virgolette che la conglomerata cinese HNA, che si occupa di settori enormi, perché insomma assomiglia un po', lo dico male, alla nostra vecchia IRI, dall'aviazione agli alberghi, è salita al 9,9% di Deutsche Bank, diventando primo azionista del colosso bancario tedesco. Il secondo azionista a questo punto è BlackRock, che era il primo, il fondo americano, il più grosso se non ricordo male dei fondi di investimento americani, che attualmente detiene il 5,9% proprio di Deutsche Bank. Volkswagen invece riporta in rialzo l'utile operativo del 27% a 4,4 miliardi, con una crescita del fatturato del 4% e un utile in proporzione alle vendite tra il 6% e il 7%, quindi sta dando i frutti anche la ristrutturazione dopo il Dieselgate. La casa automobilistica tedesca ha accantonato per, come copertura della vicenda Dieselgate, lo ricordo, 22,6 miliardi di euro. E dalla Germania arriva anche un dato sulla disoccupazione, che resta ferma ad aprile, ma resta ferma al minimo storico dal 91 al 5,8%. È calato il numero dei senza lavoro rispetto a marzo, quindi il dato è buono rispetto a marzo, fermo rispetto all'anno prima, ma è fermo, ripeto, ai minimi storici dalla riunificazione tedesca, a dimostrazione che, diciamo, questa gestione dell'Europa e alla Germania ha fatto solo che bene, ci mancherebbe. Ma non voglio tornare su vecchie polemiche, della Brexit parleremo subito in apertura, quindi non aggiungo altro. Andiamo sull'Italia, dove tiene ancora banco dal punto di vista economico soprattutto la vicenda l'Italia, perché il Consiglio di amministrazione dell'Italia ha chiesto ieri l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ribadendo che almeno fino a ottobre voli e operazioni non subiranno modifiche. Tre commissari nominati, i nomi erano circolati, comunque Luigi Gubitosi, Stefano Paleari ed Enrico Laghi. Deliberato il prestito ponte da 600 milioni di euro per 6 mesi, erogato a condizioni di mercato, 1000 punti sopra l'Euribor. Di Alitalia ha parlato oggi di nuovo il ministro Calenda, che ha detto al Question Time: mi sono più volte espresso sulla responsabilità del management operativo di Alitalia, non vi è dubbio che l'idea di gestire da Abu Dhabi la compagnia sia stato un gravissimo errore, e l'amministrazione straordinaria prevede anche, in materia di responsabilità degli amministratori, l'applicazione delle medesime norme dettate dall'ordinamento dei fallimenti. Tradotto vuol dire che eventualmente c'è anche la possibilità di avviare un'azione di responsabilità sui manager. Poi Calenda ha riferito che i 600 milioni di prestito ponte concessi dallo Stato sono il male minore, evita il peggio, ci sono 4 milioni e 900 mila prenotazioni di biglietti all'Italia e la compagnia ha comunque una quota di mercato rilevante nel paese. Tra l'altro i 6 mesi di amministrazione straordinaria ci costeranno 100 milioni di più di quanto previsto, perché la IATA, che è l'organismo internazionale delle compagnie aeree, ha chiesto 128 milioni di euro di deposito precauzionale. E ha ribadito poi Calenda che la priorità è la cessione dell'intera azienda, non lo spacchettamento. Tra l'altro ha definito una buona terna quella dei commissari, un mix di varie professionalità. Anche Del Rio, ministro dei trasporti, è intervenuto: cerchiamo chi la compri unita, ha detto Del Rio. E quindi assolutamente in linea con le dichiarazioni del ministro Calenda. Restiamo in Italia con il fisco, perché la direttrice dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ha dichiarato che con Google si è molto vicino a trovare una soluzione, mentre Apple ha già da tempo definito i suoi obblighi con lo Stato italiano. E ha sostenuto l'Orlandi che l'Italia è il paese europeo che ha fatto di più sia nel recuperare la presunta evasione dei colossi del web, sia nel firmare con loro buoni accordi per il futuro. Ricordo che secondo la Guardia di Finanza, secondo il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano, Amazon, che non c'entra con i due colossi citati dall'Orlandi, avrebbe evaso 130 milioni di euro. C'è un'inchiesta della procura aperta da oltre un anno. Vedo molti messaggi al 349-238-6666 sul rapporto Cerved. Faccio solo notare che il rapporto Cerved, come media, dice che le piccole e medie imprese del centro-nord sono tornate in media ai livelli pre-crisi. Sono medie, e quindi sono medie di Trelusa. C'è chi è tornato già da anni sopra quei livelli, c'è chi non vi è ancora tornato. Lo dico perché oggi è intervenuto sul tema anche il ministro Padoan in maniera più ampia, perché ha detto: si sta chiudendo un gap, ma la crisi non è dietro di noi, anzi è il contrario. Ha aggiunto che ci sono aree come l'Eurozona dove la cooperazione sta crescendo. E poi sul PIL ha detto: bisogna arricchire il set di misurazioni con nuovi indicatori, come ha già fatto l'Italia, che prima tra i paesi avanzati ha introdotto tra i criteri di valutazione delle politiche economiche anche gli indicatori del benessere sostenibile. Questo è un problema complesso, ma che comunque bisogna cominciare ad affrontare, a dire che il benessere equo e sostenibile ha almeno la stessa dignità di strumento e obiettivo di politica economica del PIL e del lavoro in quanto tale. È la prima volta che un paese avanzato del G7 introduce esplicitamente nel suo strumentario di politica economica questo concetto. Io sono, non per, certamente per ragioni personali, ma per ragioni nazionali, orgoglioso che sia l'Italia il primo paese che lo introduce. Visto che parleremo poi più avanti anche del rapporto Confindustria, rapporto PMI Centro-Nord di Cerved Confindustria, ripeto, sono 111.000 le imprese passate in rassegna, rappresentano l'82% del totale nazionale, 168 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 10% del PIL italiano, con 3 milioni di addetti e un fatturato di 730 miliardi di euro. I dati presentati oggi nel corso di un convegno di Asso Lombarda fotografano un'interruzione dell'emorragia di PMI iniziata nel 2009 sia nel nord-est più 0,3% rispetto al 2015, sia nel nord-ovest più 2%, mentre il calo continua a meno 0,7% per il centro e soprattutto per il sud. In questo convegno in realtà si è parlato anche dell'Osservatorio Milano 2017, che ha voluto il presidente uscente di Asso Lombarda, e mi riferisco a Gianfelice Rocca, il quale oggi ha ricordato come per Milano servano scelte coraggiose, un modello ispirato un po' a Barcellona e un po' a Monaco. Stupisce vedere come Milano è allineata con Barcellona su tutta una serie di temi reputazionali, città vivibile, città attraente, allineata con Monaco su temi che riguardano hub della conoscenza. Viene fuori che abbiamo da lavorare, abbiamo molti sapori e abbiamo una ricetta più complessa degli altre città, però abbiamo un potenziale altissimo, dobbiamo scegliere delle traiettorie, cioè dobbiamo scegliere delle priorità. Come sempre, quello che emerge da questi studi è la coerenza delle scelte politiche. Si vede molto bene Barcellona come abbiamo fatto una serie di scelte prioritarie e quindi anche noi dobbiamo pensare che qualche scelta politica dobbiamo farla, ovviamente questa è la politica che deve scegliere. Noi come industriali pensiamo che Milano hub della conoscenza, cioè tutto quello che è l'investimento sulla conoscenza, sia il vero centro su cui questa città può giocare il suo futuro. E sempre a microfono il nostro Daniele Zinni, sentiamo anche, chiaro che sullo sfondo c'è la candidatura di Milano per l'EMA, ne abbiamo parlato molte volte, l'Agenzia del Farmaco Europea, non è sola, sono tanti che la vogliono, ma dicevo, dell'andamento e del modello che dovrebbe darsi Milano, lo dico, io non sono milanese, non tifo neanche squadre milanesi, per cui, però è innegabile che in questo momento, complice anche la difficoltà che sta vivendo Roma, diciamo, la leadership di un modello economico e anche produttivo del paese, se parliamo di grandi città, ce l'abbia Milano. E poi c'è appunto l'obiettivo del, abbiamo dedicato anche un viaggio a questo, cosa fare dell'ex area Expo o dell'area ex Expo per essere più precisi, i tentativi di intercettare le attività che andano via da Londra. Su questo è intervenuto anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, sempre al microfono del nostro Daniele Zinni. Presentare meglio la città sarà comunque utile, perché al di là dell'EMA le banche d'affari stanno portando qua, alcune sta già rinforzando la presenza, sappiamo di alcune banche che stanno già trasferendosi, traslocando, cercando nuovi spazi, sappiamo di altri nuovi hotel che probabilmente cresceranno, quindi la presentazione della città è comunque qualcosa di estremamente utile. Anche oggi è venuto fuori che ad esempio in termini di servizi e mobilità sono buoni, non abbiamo l'area di Barcellona che è al mare, che però ci stiamo lavorando per nel lungo termine. Il vero limite è un po' il tema della residenzialità. Siamo in una città che, dove tutti dicono c'è tanto sfitto, purtroppo c'è ancora tanto nero, purtroppo non è chiaro dove si può trovare abitazioni. Se si potesse mettere insieme un'agenzia, anche solo informativa, non sto proponendo niente che sia a fine di lucro, ma che dia questa visione di dove un giovane può trovare casa in affitto oggi a Milano, secondo me sarebbe molto utile. Vediamo se magari lavorando con Camere di Commercio e Assolombardo si riesce. Sex Pistols, qualcuno se li ricorderà, però è la loro versione di God Save the Queen. No, qui in realtà è God Save the Money, se posso essere un po' irriverente, perché oggi c'è stato un nuovo battibecco tra il commissario europeo Michel Barnier, che sta gestendo la Brexit, il capo negoziatore, e il suo corrispettivo David Davis, britannico. Il tema sono i soldi, perché Financial Times ha scritto che potrebbe salire fino a 100 miliardi di euro il calcolo, ma Theresa May oggi ha accusato leader e funzionari europei di aver rivolto minacce sui negoziati per la Brexit con l'intento di condizionare le elezioni britanniche dell'8 giugno. Poi ha aggiunto David Davis: pagheremo solo quanto legalmente dovuto, non semplicemente ciò che l'Unione Europea vuole, e ha parlato di assegno in bianco. E ha risposto Barnier dicendo: non accetto il termine assegno in bianco, e per la Gran Bretagna non c'è nessuna punizione, ma deve solo onorare tutti gli impegni finanziari presi in quanto membro. J'arrive pas à comprendre pourquoi ici ou là on parle de Non riesco proprio a capire perché si parli di punizione o di una tassa Brexit, una tassa per l'uscita. Non è il caso. Sono stati presi degli impegni e devono essere onorati. È una questione di responsabilità. Immaginate cosa accadrebbe se ciò non avvenisse. Io voglio ottenere un accordo in nome dei 27 e so quali sono le condizioni per questo accordo. Non si tratta di creare dei problemi, ma di risolverli. E il modo per risolvere i problemi è saldare i conti, senza drammi, in modo oggettivo e rigoroso. In caso contrario, è una questione che può esplodere. se fossimo obbligati a interrompere i programmi in corso. Immaginate la situazione politica a livello di Consiglio. Dei programmi, immaginate la situazione politica au titre du Conseil. Je ne peux pas accepter le mot de chèque en blanc. Il n'a jamais été question de demander un chèque en blanc au Royaume-Uni. Non posso accettare l'espressione di un assegno in bianco. Non è questione di chiedere un assegno in bianco al Regno Unito. Non sarebbe serio da parte nostra. Noi chiediamo di saldare il conto. Noi chiediamo di onorare gli impegni che sono stati presi dal Regno Unito. Non è un assegno in bianco. Sappiamo di cosa parliamo. Ovviamente le posizioni sono diverse, talvolta anche molto diverse. Non sorprende nessuno ed è per questo che occorre un negoziato e che occorre iniziarlo il prima possibile. Alla cena ho accompagnato il presidente Juncker ed è stata la prima volta che ho avuto l'onore di incontrare Theresa May. È stato un incontro molto cordiale. Spero che potremo costruire un rapporto cordiale tra i 27 e il Regno Unito, ben al di là della Brexit. Non sono ancora sicuro di riuscirci, ma è il mio obiettivo. Ho avuto modo di evocare una comune passione, mia e di Theresa May, quella di fare passeggiate in montagna. Cosa si impara andando in montagna? Si impara a mettere un piede davanti all'altro, perché il cammino può essere accidentato. Si impara a fare attenzione ad eventuali incidenti, alle rocce che possono cadere, a risparmiare il respiro perché il cammino è lungo. E bisogna sempre guardare la cima, per me e per lei, guardare al risultato, alla cima. Per me, per lei, il risultato, il sommet. Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles, buonasera. Buonasera. Dunque Adriana, mi rendo conto che insomma, tu essendo insomma, decana in senso professionale, ci mancherebbe, dei corrispondenti da Bruxelles, tu veda la prospettiva europea. A me sembra di capire che qui, andando molto sul concreto, sul rusco e brusco, il problema siano i soldi. Io non ho capito dove il Financial Times tiri fuori questa cifra di 100 miliardi. L'Europa dice sono tutti impegni che la Gran Bretagna ha già preso, ma se sono impegni già presi, qual è l'oggetto del contendere, Adriana? Allora, l'oggetto del contendere sono appunto gli impegni che la Gran Bretagna ha già preso. Rispetto alla cifra dei 60 miliardi iniziali, si è arrivata a 100 perché alcuni paesi, per esempio in testa la Francia e la Polonia, pretendono che gli inglesi, anche dopo che usciranno da Brexit, cioè dopo il 2019 e per due anni, cioè fino al momento in cui scadrà il bilancio pluriennale dell'Unione, che appunto scade alla fine del 2020, paghino anche per i sussidi agricoli, diciamo della politica comune, in quanto si sono a suo tempo impegnati su base pluriennale. Questo è un motivo della lievitazione del conto. L'altro motivo è che mentre in un primo tempo la Commissione pensava che diciamo per quello che riguarda le proprietà immobiliari e non della Commissione, insomma delle istituzioni europee, gli inglesi dovessero ricevere una quota parte in quanto escono, secondo i tedeschi questo invece non sarebbe da prevedere, e anche questo fa lievitare il conto. In realtà di questi famosi 100 miliardi che sono saltati fuori oggi, se si tiene conto degli anticipi di pagamento, dei prestiti fruttiferi e compagnia che gli inglesi hanno fatto per la loro quota parte, diciamo quando tutto ritornerà, non subito ma nel giro di qualche anno, a dare i rendimenti agli inglesi previsti, questa cifra si calcola che scenderà netta tra i 55 e i 75 miliardi. Il problema è che gli inglesi per principio non ritengono di dover pagare niente per l'uscita, ed è qui il punto, non è tanto la cifra, è il concetto, per cui gli europei dicono c'è un impegno perché voi vi siete impegnati sul medio-lungo termine e agli impegni finanziari bisogna far fronte, e loro dicono neanche per idea, noi non intendiamo far fronte a questi impegni. Ora, il problema secondo me è anche che Theresa May è in campagna elettorale, quindi deve fare la faccia feroce a tutti i costi. Gli europei al tempo stesso devono cercare di mantenere la loro identità, unità a 27, perché se si spaccano ovviamente si indebolisce la posizione dell'Europa, e quindi c'è oltranzismo da entrambe le parti. ma io credo che una volta passate le elezioni inglesi ci si metterà a un tavolo negoziale e si cercherà di arrivare ad un accordo, perché l'accordo è nell'interesse di entrambe le parti. Insomma, ecco, Adriana, dopo il metodo e la pubblicità, ho un'ultima cosa da chiedere, perché tu ricordavi come c'è un tema anche tattico, Theresa May va a giugno elezioni e sicuramente non vuole dimostrare che cede le richieste europee. C'è un problema di principio, però poi se ci sono degli accordi presi, un punto di unione, bisognerà trovarlo. È tutto bene. E l'Europa, devo dire una volta tanto, visto che per anni l'abbiamo criticata, si è presentata con voce sola. Cioè, l'Europa io la critico spessissimo, ma questa volta mi sembra che per ora, forse l'effetto, diciamo, tra virgolette, del nemico esterno abbia creato maggior compattezza. Vorrei capire però se sullo sfondo non c'è un'impostazione un po' diversa, cioè mentre la Gran Bretagna vorrebbe fare tutto un pacchetto unico, andare con tutto un insieme di dossier sul tavolo, l'Unione Europea ha detto: guarda, questi soldi ce li devi, prima trattiamo i diritti dei cittadini europei in Gran Bretagna e britannici nell'Unione Europea, poi affrontiamo altre tematiche. Se resta una diversità non solo di valutazione economica ma anche di diverso approccio negoziale dopo la pubblicità, il metodo e la risposta, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Adriana Ceretelli, non c'è un problema anche di modello negoziale? I britannici vorrebbero portare tutti i dossier subito sul tavolo e invece l'Unione Europea, almeno da quello che ho capito io, ha delle priorità diverse. Prima vuole le garanzie sui diritti dei cittadini europei e britannici in Europa, poi si parla del resto. Sì, c'è sicuramente questo, e queste sono le linee guida che sono state approvate al vertice europeo di sabato scorso. In sostanza, per l'Europa ci sono due fasi negoziali. La prima deve coinvolgere, come dicevi, i diritti e doveri dei cittadini di entrambe le parti, 4,5 milioni di persone. Poi deve trovare l'accordo sulla liquidazione appunto della fattura di uscita degli inglesi. Terzo, deve decidere anche dei nuovi confini dell'Unione Europea, perché naturalmente c'è il problema dell'Irlanda che rimarrà tagliata fuori dall'Europa, e in più c'è l'Ulster, la parte dell'Irlanda del nord inglese che vorrebbe unirsi all'Irlanda. E quindi ci sono tre cose molto importanti che vanno prima decise con un accordo di principio, tenendo sempre fermo il solito principio europeo che non c'è accordo fino a che non c'è un accordo globale finale. Allora, se ci sarà un accordo di principio su questi tre punti e si pensa che possa arrivare, se tutto va bene, entro la fine dell'anno, c'è chi addirittura parla di ottobre, allora si potrà parlare della seconda fase, che è quella a cui tengono gli inglesi, cioè periodo transitorio più nuovo accordo di libero scambio tra Europa e Gran Bretagna. Mm-hmm. Gli inglesi invece vorrebbero fare tutto insieme. Perché? Perché ovviamente tendono a svicolare agli impegni. Al tempo stesso, che la fattura finanziaria può essere una moneta di scambio per lo status dei cittadini europei in Gran Bretagna e viceversa per gli inglesi che stanno in Europa. Quindi è un po' tutto si tiene, ma secondo me giustamente la tattica negoziale europea è di dire: beh, cominciamo a chiudere la parte del passato, del rapporto degli ultimi 40 anni tra inglesi e Europa, e poi parliamo dei rapporti futuri, quando la Gran Bretagna sarà un paese terzo e dunque regoleremo, certo, i nuovi rapporti. Ha una logica l'impostazione. Io devo dire che questa volta sono d'accordissimo, per quello che vale a mio giudizio, sono d'accordissimo con l'impostazione europea. Cioè, abbiamo criticato l'Europa per anni, l'Europa a guida tedesca, l'Europa ragionieristica, l'area euro, soprattutto l'Europa nell'atteggiamento con la Grecia e non solo. Una volta tanto che si dice, vedo alcuni ascoltatori che tifano britannico, allora io capisco che non possa aver voglia di uscire dall'Europa, ci mancherebbe, ma poi però pensi anche ai vantaggi tuoi. Cioè, se l'Inghilterra, come ha fatto la Gran Bretagna, ha preso degli accordi, deve pagare questi soldi, poi puoi uscire tranquillamente dall'Unione Europea. ma deve pagare questi soldi. Io ho la sensazione che nemmeno i britannici immaginassero che fosse così, diciamo, delicato, travagliato e così anche complicato interrompere 43 anni di rapporti con l'Unione Europea e insomma e di status e di accordi fatti, perché vedo che anche i britannici insomma non hanno un atteggiamento completamente lineare. È difficile, non certo, non è mai capitato. Alcuni mi chiedono, ma se loro si rifiutassero di pagare i 60 miliardi? Beh, certamente non manderemmo le cannoniere, questo è sicuro. Non siamo a quei tempi. Però, insomma, siamo tra, come dire, due contraenti che si presuppone rispettino la legge, no? E quindi dovremmo arrivare ad un accordo. Non saranno questi famosi 100 miliardi che di fatto sarebbero al massimo 75. Ci saranno sicuramente degli sconti, perché nella trattativa, eccetera. Però immaginare che non ci possa essere in nessun modo, diciamo, un riconoscimento degli impegni presi. Sì, ma infatti io non capisco questo atteggiamento. Anni mi sembrerebbe assurdo. Io non capisco questo atteggiamento di alcuni ascoltatori che tifano Gran Bretagna quando dovrebbero tifare Italia, cioè chi i soldi poi li prenderà come Unione Europea. E comunque attenzione, che quando parliamo dei diritti delle persone, parliamo anche della più grande comunità, se non ricordo male, quella italiana, la seconda, di persone non britanniche residenti in Gran Bretagna, che sono nostri connazionali, sono studenti, sono ex diplomati o laureati che vanno lì a lavorare, sono persone che lavorano lì da anni, cioè non è che stiamo facendo un regalo agli inglesi, che vorrebbero però un trattamento speciale per i britannici che girano l'Europa, anche perché molti di questi hanno case, hanno fatto acquisti immobiliari, pensate alla Spagna, pensate al Chianti, pensiamo alla Francia, alla Provenza, insomma non è che bisogna sempre per forza... così, no, essere genuflessi, prego. Se mi consenti, vorrei aggiungere che i soldi che gli inglesi non verseranno al bilancio europeo, soldi che dovevano versare in base agli impegni presi, verranno a mancare dal bilancio e dunque verranno erogati in misura minore, tra gli altri, anche all'Italia. Quindi c'è anche un interesse in tutto questo, perché il bilancio è stato concepito a 28 paesi, se diventano 27 e in più un contribuente non indifferente, ovviamente si crea un buco di bilancio. E chi lo coprirà? Sì. O ci saranno i soldi no, ma per me, che insomma, pagano, io si tifo sempre, le spese. Io tifo sempre Italia. Ho capito, alcuni dicono adesso gonfiamo i conti, poi facciamo con andiamo a trattativa. Ho capito, ma parte nel negoziato, magari io non posso escludere che uno dica puoi arrivare fino a 100 miliardi per poi chiudere una cifra molto più bassa e anche magari più bassa un po' dei 60, ma non capisco chi dice poveri inglesi che devono pagare. Attenzione su questo. E ancora qualcuno mi scrive che adesso sono un fan di Juncker. No, non sono un fan di Juncker, l'abbiamo sempre criticato. Dico semplicemente che se il commissario europeo e anche Juncker fanno capire alla Gran Bretagna che non può dettare lei le regole di un'uscita, ha fatto il referendum, benissimo, adesso ci sono altri paesi con pari dignità, un'Unione Europea che ha la sua dignità, che ti dicono guarda, hai preso gli accordi, devi pagare gli accordi presi. E poi iniziamo le trattative dal punto che a noi interessa, e cioè i diritti dei cittadini europei sul suolo britannico e anche chiaramente i diritti dei britannici sul suolo europeo. Non ci trovo nulla di strano, non capisco perché si debba sempre tifare per la squadra avversaria pur di non dare ragione ogni tanto all'allenatore. Grazie a Adriana Ceretelli, andiamo sul traffico e poi la borsa. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Focus Economia. Minuti, no, non sono silly money, come dice il nostro stacco, non sono soldi sciocchi, sono soldi importanti e anche principi importanti. Continuo a rispondere agli ascoltatori sulla Brexit, ma trasferiamoci in Italia invece. Rapporto Confindustria Cerved sulle piccole e medie imprese del centro-nord vede, lo dico di nuovo, titolare crisi alle spalle per le piccole e medie imprese del centro-nord. Hanno censito 111.000 imprese con, ripeto, un fatturato complessivo di 730 miliardi di euro. Emerge che rispetto all'emorragia iniziata nel 2009 c'è stato un aumento, si è interrotta seppur di poco l'emorragia di piccole e medie imprese, più 0,3% nel 2015, più 1, nel nord-est, più 2% nel nord-ovest, il centro ancora il segno meno. È troppo presto, chiaramente, per parlare di un ritorno al pre-crisi. Siamo semplicemente all'interruzione di una continua discesa del numero di piccole e medie imprese. Tra l'altro, perché rispetto ai voi pre-crisi, insomma, non ci siamo ancora, ma cresce anche il fatturato con tassi intorno al 3%. Su questo, di questo vorrei parlare con il professor Matteo Caroli, docente di gestione di impresa all'Università Luiss di Roma. Buonasera. Buonasera, eccomi. È chiaro che il dato aggregato, Caroli, insomma, fa la media di Trilussa e non distingue tra quello che ha chiuso anche quest'anno e quello che invece ha aperto. Però perché risulta così importante questo dato anche sul fronte statistico? Perché la prima volta, diciamo, che non ci becchiamo sempre comunque il segno meno nel confronto tra imprese che nascono e imprese che chiudono? In realtà il saldo di nati mortalità delle imprese è stato generalmente positivo anche per alcuni degli anni di crisi, quindi anche intorno al 2010. Sì, qui parliamo del valore chiaramente del... Esatto. L'elemento comunque interessante è la crescita abbastanza consistente del fatturato. E questo credo che dimostri la capacità competitiva delle nostre imprese, in particolare appunto quelle al nord, a livello internazionale. L'altra motivazione è che se noi andassimo a disaggregare i dati, vedremmo che i risultati migliori sono realizzati dalle imprese relativamente più grandi. Quindi dalle medie o dalle piccole, perché ricordiamoci che nell'aggregato delle PMI in realtà abbiamo una componente di microimprese i cui risultati sono inevitabilmente non particolarmente brillanti. Quindi la conclusione è le imprese tornano ad avere risultati positivi, a crescere, a svilupparsi, perché quella parte che ha una dimensione relativamente maggiore e che ha una maggiore proiezione internazionale. È lì che stavo arrivando, perché la dimensione in questo caso vogliono dire soprattutto capacità di essere presente sui mercati esteri. Una volta, 20 anni fa, 25 anni fa, eravamo la patria del piccolo e bello, si venivano a studiare i nostri modelli di impresa. Ci mancherebbe, i distretti industriali fatti di miriade di piccole imprese in filiera, fornitrici, subfornitrici, quant'altro. È cambiato il mondo e quindi in questo momento, siccome i fatturati li fai all'estero soprattutto, se tu sei piccolo e non sei, come spesso diciamo però, professor Caroli, non sei nella filiera del valore, tu puoi essere piccolo, fornire un componente o alcuni elementi della componentistica a uno medio grande e stai benissimo, se lui poi esporta. Il problema è se sei piccolo e se sei solo. Se sei troppo piccolo e sei solo. Beh, certo, se sei troppo piccolo non diventi neanche fornitore di un medio grande. Esattamente, non diventi fornitore e non sei in grado di investire in innovazione, anche innovazione incrementale, quindi senza fare grandissimi progetti di ricerca che comunque una media o medio piccola impresa non potrebbe fare. Ma c'è comunque un'innovazione incrementale e c'è un investimento nel capitale umano. Ecco, per fare tutto questo la microimpresa non ha difficoltà, a meno che non sia in un settore ad altissima crescita e quindi sia in grado poi di attrarre rapidamente gli investitori, insomma la logica delle start-up. Le altre sono inevitabilmente statiche. La piccola o medio piccola impresa, che concretamente significa già aziende da un taglio di 15, 20, 30 milioni di fatturato, hanno questa potenzialità, perché se sono capaci, come giustamente lei osservava, di entrare, di giocare un ruolo nella filiera internazionale o anche di arrivare al mercato finale in una nicchia, possono cogliere opportunità di crescita. Dopodiché io sottolineerei che comunque anche per questa tipologia di impresa è necessario una politica industriale che le accompagni alla ulteriore crescita, cioè a farle diventare medie o medio grandi. Sì, sì, e questo insomma, qualcuno mi chiede ma cos'è la media di Trilussa, la famosa media, la battuta di Trilussa, un uomo mangia due polli, un altro ne mangia zero, la media è che ogni uomo mangia un pollo, in realtà uno muore di fame e l'altro ingrassa, è quando la statistica non corrisponde alla realtà, diciamo, scorporata, e questo vale ancora di più quando metti assieme 111.000 imprese e... Secondo le divisioni statistiche, imprese così diverse, perché le piccole da noi sono veramente piccole, le medie hanno per questo paese già una dimensione diversa. Poi ci sono tutti gli incentivi possibili, rispondo anche ad alcuni messaggi. Devo dire che superammortamenti e iperammortamenti sono all'interno del progetto Industria 4.0 un grosso incentivo, 140% e 240% poi... scaricare. Il problema è se tu fai queste innovazioni digitali perché ne hai bisogno, se tu sei talmente piccolo che non riesci a cogliere, la soluzione qual è? La soluzione è ingrandirsi, o mettersi in filiera o ingrandirsi, questo però lo ripetiamo da anni. Poi se uno ci tiene a essere lui l'unico titolare della sua SRL e quant'altro, cosa ci posso fare? Dire auguri e basta. Si può anche trovare forme, ne abbiamo parlato per intere puntate, dai distretti all'integrazione di rete, all'integrazione di filiera, non più geografica ma in base al prodotto che fai. Però ecco, l'unica cosa che non riesci a fare è essere piccolo e star da solo, questo tenderei a discutere. Grazie anche al professor Matteo Caroli. Andiamo sul GR24. Caroli, è ancora in collegamento professore? Ah sì, sì, ci sono. Mi toglie un dubbio prima che di chiudere, ma è Caroli o Caroli? Così non cambio. Caroli. Grazie anche al professor Caroli, così non cambio il cognome una volta ogni due. E poi andiamo sulla borsa che ha chiuso con un più 0,13% e dacci oggi la nostra Alitalia quotidiana. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Sono Enrico Ruggeri, questa settimana puntate molto belle ma difficili da raccontare al Falco e Gabbiano. Il breve volo di Steve Ray Vaughan, il bianco che sapeva suonare il blues. E poi voliamo sulle ali di carta per raccontare la terribile ambizione di Macbeth che lo portò a una fine tragica. Oggi si chiama Michaela De Prince, ma era una bambina che ha subito qualsiasi tipo di violenza nella sua terribile infanzia in Sierra Leone. Insieme a Rossella Brescia parliamo del suo riscatto avvenuto attraverso la danza. E poi la storia di un serial killer che a San Francisco ha tenuto in scacco la polizia per decenni. Lo chiamavano Zodiac, ma il suo vero nome non si è mai saputo. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 15.30 su Radio 24, il Falco e Gabbiano. Pierluigi Pardo, confesso che ho perso il numero delle stagioni. Hai perso il conto perché abbiamo una marea di cose, la Champions League, l'Europa League, il campionato, il calcio internazionale. E poi? E tutti i giorni, tutti convocati, guarda è facile, tutti i giorni, tutti convocati, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15.30 c'è anche De Luca. C'è anche De Luca, è il nostro autore, ma certamente siamo ormai una squadra affiatata, anche se ho perso il conto delle stagioni. Di tutti siamo una squadra fortissimi. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, alcuni mi scrivono: è un liberismo neofeudale, criminale, se uno vuole rimanere piccolo deve poterlo fare. Ma guardi che uno può fare quello che vuole, mi riferisco al rapporto Cerved, Confindustria, uno può restare piccolo, però noi possiamo dare delle indicazioni sulla base di quello che vediamo e delle analisi che leggiamo, che il fatto che il mondo sia cambiato e che vadano bene le imprese che hanno dimensioni medio-grandi e la capacità di essere presenti sui mercati esteri è un dato di fatto, non è che l'ho deciso io. Uno può restare piccolo quanto vuole, se poi riesce anche a sopravvivere, bene. Non abbiamo parlato solo di dimensioni in senso stretto. Se tu sei in filiera del valore, che vuol dire sostanzialmente che sei fornitore oppure venditore di qualcuno che però ha queste dimensioni, puoi stare benissimo, non piccolissimo, ma puoi stare, se riesci a essere in questa filiera, con le dimensioni che hai, così come potresti essere un medio grande ed essere però piccolissimo rispetto ai tuoi concorrenti e diventa un elemento negativo. Poi c'è qualcuno che vuole andare contro il tempo e contro i tempi che stiamo vivendo. Va bene, auguri, devo dire. Ma non è che lo vogliamo noi, Andiamo sulla borsa e poi, a proposito di dimensioni, di possibilità di essere integrati, arriviamo anche dall'Italia. Più 0,13%, oggi non è una giornata, diciamo, indimenticabile. Parigi invariata, Francoforte più 0,1, Londra meno 0,2, Dow Jones invariato anch'esso. Media 7 per del 2,30, Kesniola nel 2%, Steam Microelectronics l'1,80, Fineco Bank meno 1,30, Buzzi Unice meno 1,20, come Leonardo meno 1,1, Prismian e Tenaris. Banco BPM meno 2%, Unicredit meno 1,90, Banco BPM più 2%, Unicredit più 1,90, Generali cresce dell'1,20, Fiat dell'1,1, Terna dell'1%. Come sempre il commento con Radio Corriere Sole 24 Ore per quello che riguarda la borsa. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Partiamo da Mediaset. Ho visto un po' di tensioni anche su Tenaris, e invece Banco BPM e alcuni bancari, Unicredit e Generali. Sì, Mediaset sta vivendo una fase di debolezza perché continua l'incertezza su quello che farà Vivendi. Può anche darsi che nei giorni caldi di Telecom, i prossimi, in particolare domani con l'assemblea degli azionisti e il giorno dopo con il primo CDA del nuovo corso, quello che potrebbe essere il nuovo corso de Puy Fontaine, se l'amministratore delegato dei francesi sarà nominato alla presidenza di Telecom, può darsi, dicevo, che usciranno anche indicazioni su quelle che possono essere le strategie di Vivendi, ricordiamo, per risolvere il nodo posto dall'autorità delle comunicazioni circa la concentrazione tra Telecom e Mediaset, e quindi il titolo ne soffre e ne sta soffrendo in questa fase dopo che aveva recuperato un po' terreno. Si sono mossi bene, abbastanza bene complessivamente i bancari, anche per le indicazioni, diciamo così, di un atteggiamento leggermente più soft sui requisiti di capitale da parte della Banca Centrale Europea, ma per quanto riguarda Unicredit è stata anche una giornata abbastanza da protagonista, non solo in Italia quanto a Monaco di Baviera, dove si svolgeva l'assemblea annuale di Allianz, e Allianz ha indicato, ha fatto un po' chiarezza sulla sua partecipazione in Unicredit, dicendo che ha sottoscritto il recente maxi aumento di capitale e che ora detiene una quota dell'1%, e non solo, che supporta anche l'operato di Mustier alla guida di Unicredit. Tra gli altri finanziari bene anche Banco Popolare e Generali Assicurazioni. Resta sempre ben acquistata Unipol perché continuano le indiscrezioni di una possibile combinazione con la Popolare dell'Emilia Romagna, non tanto per l'intero gruppo assicurativo bolognese quanto per le sue attività bancarie, segnatamente quelle che sono sotto il gruppo, sotto il cappello di Unipol Banca. Allora, per quello che riguarda invece Fiat, dopo la delusione sulle immatricolazioni in Italia e Brasile e il calo di ieri, oggi più 1,1%, andando Telecom invece, visto che oggi aveva la trimestrale, meno 0,30%, mi sembra abbastanza piatta, no? Come meno 0,36%, un altro titolo piatto prima dei conti è stato Yux Net-a-Porter più 0,1%, che appena dopo la chiusura dei mercati ha invece comunicato la pubblicazione della trimestrale con ricavi in crescita del 15% nel periodo gennaio-marzo, vicino a 515 milioni di euro. Tra i titoli segnalo, andiamo direttamente ai migliori e peggiori, che Tecnogym perde oggi il 6%, Intergroup il 4,70%, la Lazio meno 4,70%, Poligrafici Printing meno 4%, la Roma perde il 3,90%, Luciano Media Group meno 3%, bene invece Ceramiche Ricchetti più 18,20%, Safe Bag più 16,35%, Bialetti più 11,80%, Snitech più 9,40%. Ancora tra i titoli che non ho citato, devo dire che oggi vanno bene, sono positivi, Moncler più 0,80, e Saipem più 0,80, Unipol più 0,70, invece tra chi cede anche oltre che Tenaris l'1%, Biperbank meno 1 e A2A meno 0,90%. Piaggio. Sì, per quanto riguarda Piaggio si tratta di realizzi su un titolo che viaggia abbondantemente ai massimi da 12 mesi, vicino a 1,99 euro. I dati forniti dalla società per quanto riguarda i conti trimestrali sono stati positivi e sopra le attese, più 18% a livello di utile netto, con 1,5 milioni di utile nel primo trimestre. Sicuramente non sono arrivate delle buone indicazioni sul mercato italiano ieri dall'ANCMA, perché il mercato delle due ruote ad aprile si è contratto di oltre il 3%, anche se Piaggio era supportata, diciamo così, dai conti del primo trimestre, ma comunque insomma la correzione di oggi fino a questo momento è sicuramente indicabile come delle prese di profitto su un titolo ai massimi da 12 mesi. Grazie anche Andrea Fontana, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. E torniamo sul tema l'Italia. In realtà, insomma, ci sono, dopo la missione alla procedura di amministrazione straordinaria di ieri, chiesta dal Consiglio di amministrazione, voli, operazioni non subiranno modifiche. I tre commissari nominati, Gubitosi, Laghi e Paleari, e deliberato il prestito ponte da 600 milioni di euro per 6 mesi. Sull'Alitalia ha ribadito la giustezza dell'intervento il Premier Gentiloni ieri al termine del Consiglio dei Ministri, e oggi il Ministro Calenda invece ha aggiunto che da un lato ogni misura è possibile anche una volta che si va in amministrazione straordinaria, l'azione di responsabilità nei confronti dei manager. Ieri abbiamo posto in amministrazione straordinaria l'Italia, l'abbiamo dotata di un prestito ponte di 600 milioni di euro per evitare di lasciare a terra aerei dalla mattina alla sera, il che avrebbe provocato un danno molto più significativo dell'ammontare del prestito ponte, che è stato concesso peraltro a tassi di mercato e che serve a finanziare una procedura che ha una durata di 6 mesi. Mi sono più volte espresso sulla responsabilità del management operativo di Alitalia. E non vi è dubbio che l'idea di gestire da Abu Dhabi la compagnia sia stato un gravissimo errore. Ovviamente allo stesso tempo va riconosciuto agli investitori di aver messo dei soldi, di averci creduto e di essere stati anche pronti a metterne degli altri. Ora, per quanto riguarda la responsabilità degli amministratori, l'amministrazione straordinaria prevede in materia di responsabilità degli amministratori l'applicazione delle medesime norme dettate dall'ordinamento per il fallimento. I commissari appena nominati adotteranno dunque doverosamente ogni iniziativa eventualmente necessaria anche con riferimento allo specifico tema della responsabilità degli organi sociali. Si aggiunge che la normativa sull'amministrazione straordinaria dispone una particolare forma di accessibilità da parte di ogni interessato alle informazioni sulle cause dell'insolvenza, essendo previsto che nel termine di 6 mesi dall'apertura della procedura i commissari straordinari presentino al giudice delegato una relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza e che l'estratto di tale relazione sia reso pubblico. Allora, vorrei parlarne oggi con il professor Ugo Arrigo, che ringrazio per essere tornato nostro ospite, insegna economia alla Statale di Milano Bicocca. Buonasera professore. Buonasera, buonasera. E con il collega del Sole 24 Ore Giorgio Pogliotti. Buonasera Giorgio, che sta seguendo assieme ad altri, va detto, le vicende d'Italia. Buonasera anche a te Giorgio. Sì, buonasera. Prima di andare sul traffico, andiamo sul traffico, poi la nostra Elisabetta Fiorito ha raggiunto dopo il question time proprio il ministro Calenda, che con lei ha fatto il punto sulle prossime scadenze, tema che interessa moltissimo gli ascoltatori. Dopo il traffico lo ascoltiamo, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Adesso l'Alitalia è in amministrazione straordinaria, è stata dotata di questo prestito ponte, i commissari devono fare un programma di lavoro, al contempo entro 15 giorni devono aprire e quindi fare un, chiamiamolo bando, che in realtà è un termine improprio, ma non troppo, a manifestazioni di interesse. Questo è il loro lavoro, questo è quello che succede da dopo. I viaggiatori sono garantiti? Assolutamente sì, i viaggiatori sono totalmente garantiti. Allora, Giorgio Pogliotti, insomma, questa è la situazione. Devo dire che Calenda continua a non lesinare critiche all'azionista che ha il 49% e quindi Etihad per la gestione in questi anni, tutta centrata su Abu Dhabi e senza che veramente sia mai partito uno sforzo dell'Italia sulle rotte a lunga distanza, superiore al previsto. Mi sembra invece che sul fronte dei pretendenti, insomma, vi siano pochi vogliosi di sposarsi. Ma in questo momento è inevitabile, voglio dire, anche quando si tirò fuori il nome di Lufthansa, subito il giorno dopo i vertici subito smentirono, perché in questa situazione l'Italia ridotta in queste condizioni nessuno ha interesse a investirci. Ma infatti la scommessa del governo è un'altra, la scommessa del governo è quella di provare a ripulire in qualche maniera l'Italia, a renderla più appetibile e cercare un socio forte. Ma questo quindi con un'uscita di Etihad a questo punto? Insomma, sembrerebbe che... I toni non sono molto concilianti. Sembrerebbe che la cosa sia nei fatti sia così, adesso poi... Insomma, conviene procedere in maniera molto con molta cautela. Però lo scenario di scuola quando si va in amministrazione straordinaria è che i commissari hanno l'obiettivo di garantire, di mantenere appunto l'equilibrio dei conti e quindi procedono a vendere asset, quelli più appetibibili. E poi, sì, oggi, e però, poi, sia Calenda che Del Rio hanno detto. Fammi completare un attimo, perdonami, il mio ragionamento. Ecco, non è questo lo scenario che abbiamo di fronte, cioè lo scenario a cui hanno fatto riferimento sia Calenda che Del Rio è quello invece di a noi ci interessa preservare, in qualche maniera il core. Quindi, probabilmente ci sarà un'operazione progressiva di pulizia, quindi avremo una diversa poi la società alla fine di questo percorso sarà sicuramente come dimensioni diverse rispetto a quella che abbiamo noi adesso, però in qualche maniera sarà lasciatemi passare il termine pulita di tutte quelle che sono i sovraccosti, le attività che magari possono essere anche esternalizzate eccetera e quindi diventare appetibile, certo, per possibili soci. Ecco, questo è un po'. Ecco, su questo poi vengo anche al professore. Qualcuno mi scrive giustamente: ma come farà l'Italia a rimborsare tra 6 mesi un prestito ponte di 600 milioni di euro, Giorgio? Certo, 600, poi 600, che poi sono 700. Sì, 690. Come farà? Certo, allora tutto bisogna vedere poi se questi 6 mesi saranno veramente 6 mesi, o ci potrebbe essere sicuramente, i commissari potrebbero poi alla fine avere una proroga, perché se ovviamente sono cose che non si possono dire in partenza, però poi possono essere nei fatti, voglio dire, laddove l'operazione stesse andando a buon fine, servisse un po' più di tempo, non è che stanno lì a lesinare, ci sono dei precedenti, pensate a Ilva, anche lì i commissari straordinari sono rimasti per un sacco di tempo, quindi anche lì la questione dei tempi va vista probabilmente con una certa, adesso fanno bene a dire sostanzialmente tempi stretti eccetera, ma poi c'è un aspetto molto importante che è l'aspetto psicologico, è importante che quest'estate ma anche questo autunno la gente continui poi a comprare i biglietti in Italia, ed non è un caso che la compagnia continuamente fa appello e anche per garantire la continuità serve, perché ti crollano nel periodo più importante dell'anno, ti crollano completamente i ricavi, lì a questo punto non la salvi più. Professore Arrigo, la convince, come ha appena raccontato Giorgio Pogliotti, l'approccio del governo, da quello che ho capito, delusione per essere buoni sul socio Etihad e sui manager messi lì. Adesso l'azienda è commissariata, i tre commissari, come diceva Pogliotti, fanno il lavoro che fanno sempre i commissari, tranne che invece che vendere le parti buone e cercare di ottenere il massimo possibile, qua si punta a tenere assieme l'intero gruppo ripulendolo e poi vedere che accordi si possono fare. Ma allora, intanto è corretto cercare di rimettere ordine, di capire cosa non va e quindi di fare le pulizie aziendali. Se noi mettessimo in vendita un nostro appartamento, prima di ospitare dei possibili acquirenti lo rimetteremmo in ordine, e questa è una cosa, diciamo, equivalente. Io ho qualche perplessità sul metodo, cioè nel momento in cui i vecchi azionisti non hanno più messo soldi sulla gestione, siamo dovuti arrivare al commissariamento, però io noto che due dei tre commissari hanno legami professionali o sono designati dagli azionisti uscenti, e quindi come contribuente sono un pochino, diciamo così, non troppo soddisfatto, perché sono i contribuenti che mettono 600 milioni, ma sono gli azionisti uscenti che hanno designato due commissari su tre, e quindi questa cosa qui in un paese normale secondo me non sarebbe stata fatta. L'altra cosa riguarda i possibili acquirenti, nessun acquirente si presenterà per prendere l'Italia nella sua integrità così com'è, perché c'è un'ampia parte di breve raggio che è sproporzionata rispetto alle dimensioni del lungo raggio, e quindi tutti gli altri grandi vettori europei hanno un breve raggio che è molto piccolo rispetto al lungo raggio, quindi al più si prendono il lungo raggio, cioè i 25-26 aerei più quelli che servono per alimentare l'hub di Fiumicino, quindi si prende un mezzo azienda. E l'altra mezza, sì, precisiamo che quando parliamo di breve raggio parliamo soprattutto del Milano-Roma, del Venezia-Roma, del Torino-Roma. Sì, io metterei anche i voli europei, diciamo. Però mi scusi, ma il Milano-Catania, il Milano-Palermo, il Milano-Cagliari, insomma, difficile che l'alta velocità possa far concorrenza. E lei intende anche il Milano-Madrid, il Roma-Londra, il Venezia-Berlino, il Venezia-Monaco? Vanno ripensati. I voli europei sicuramente non servono per alimentare l'hub di Fiumicino, trasportano turisti che vengono in Italia e italiani che vanno in Europa, ma non persone che proseguono poi con voli all'Italia intercontinentali. Se su questi voli all'Italia perde, perde per ragioni non rimediabili, sono non sostanzialmente non vendibili, non cedibili. Io ho fatto un calcolo secondo stime mie, perché poi purtroppo non abbiamo neanche il bilancio 2016, quindi non sappiamo. Noi sappiamo che l'Italia è peggiorata molto negli ultimi 12 più 4 o 16 mesi, ma non sappiamo perché, non abbiamo i bilanci. La vecchia l'Italia statale era quotata, presentava relazioni trimestrali, e quindi almeno gli amministratori uscenti presentare una bozza di bilancio 2016 forse avrebbe permesso questo di saperne di più sulle cause del peggioramento aziendale. Allora, qualcuno mi dice, non citate mai i nomi, ma sono su tutti i giornali, il presidente, ex presidente Montezemolo e soprattutto i manager operativi, Kramer Ball e quant'altro, insomma, che il governo, nella figura in particolar modo del ministro Calenda, sia molto critico con la gestione, con l'operazione fatta da Etihad di rilancio, poi non avvenuto, insomma, l'ha detto in tutti i modi possibili, adesso l'ha detto anche ai nostri microfoni, per cui non è un problema, è anche il punto di andare a vedere che cosa capiterà adesso, e bene ha fatto Giorgio Pogliotti a ricordare l'importanza dal punto di vista del governo di garantire l'operatività di Alitalia, perché non venga in mente a qualcuno di non prendere il biglietto perché dice forse non c'è il volo, perché a quel punto si avvita tutto il percorso e il processo. Grazie per ora, vedremo se poi vi saranno altri sviluppi sia a Ugo Arrigo, a professor Ugo Arrigo, che a Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore. È veramente tutto anche per questa puntata di Focus Economia. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Berrisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.